ti vedo qui davanti a me. Penso a quante cose avrei da chiedere, solo che non so chi devo chiederle. Forse nei tuoi pugni le risposte provo a prenderle. Mi aiuterebbe a capire come fare, cambiare punto di vista, ricollocare. Sembra tutto fuori posto, non mi riconosco. Poi mi cadi avanti agli occhi e mi rimetti a posto. Hai cambiato tutti i miei piani, sì, così dall'oggi al domani. Averti fra le mani ha cambiato tutti i miei piani. Ora che sorridi qui di fronte a me, di una gioia spesso incontenibile, contagiosa che non so trascrivere. Tenerezza pura, mille dubbi e poi disordine. Scarpe piene di attimi da ricordare, altri che invece potrai lasciare andare. Tu sei come fosforo per la memoria, la tua è una parte già gigante nella mia storia. Hai cambiato tutti i miei piani, sì, così dall'oggi al domani. Averti fra le mani ha cambiato tutti i miei piani. Ho urlato forte il tuo nome, sì, fino a finire la voce. Averti fra le mani ha cambiato tutti i miei piani. Che poi nei tuoi gesti mi rivedo, ma nei tuoi silenzi c'è di più di quello che io ti posso dare. Pensiero, cresci tu. Piani.